tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare. Specchio, forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà. E c'è bisogno di dolore per un po' di felicità. Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro. E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo. Il tempo corre quanto è stronzo, sorpassa e poi ti ruba il posto. E mentre fuori brucia un altro inferno, pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare. I mostri che c'ho dentro che mi fanno cadere, questa mania che devi andare solo bene. A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so volare. Ogni volta che non so volare. Ogni volta che non so volare.